Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Luigi Edoardo Capriotti, 19 anni, il mio unico figlio, vittima della strada. Luigi, ma anche Francesco, Sara, Carlo e tanti altri. Il 2 marzo di quest'anno è stata approvata la legge sull'omicidio stradale e tutti erano convinti che fosse vinta la battaglia contro l'aumento delle vittime di incidenti. Invece oggi i dati pubblicati dalla Polizia Stradale sono sconfortanti. È lui, vero? Nei primi 5 mesi del 2016 sono aumentati del 20% e la maggior parte delle vittime sono giovani sotto i 30 anni. Prima causa dei decessi al volante sono gli SMS, perché spesso chi guida fa anche altro. Installa il navigatore, legge l'iPad, parla al cellulare o scrive e legge messaggi. Per leggere un SMS bastano 2 secondi, ma equivalgono a una trentina di metri senza guardare la strada. E per mandare un messaggio ci vogliono circa 10 secondi, un tratto di oltre 300 metri, dove può succedere di tutto. Questo era un servizio del TG4 dei primi mesi dopo l'approvazione della legge sull'omicidio stradale. È uscito ieri un servizio dettagliato invece su Repubblica, un'inchiesta, il titolo è Omicidio stradale, una legge che sbanda, dove ci sono tutti i dati, tipologia per tipologia, categoria per categoria, dove si dimostra che in realtà questa legge non ha fatto diminuire gli incidenti. Ad esempio gli incidenti in autostrada, se prima della legge ce ne sono stati per esempio 19.835, dopo ce ne sono stati un numero percentuale per cui alla fine ci sono stati soltanto 29 incidenti in meno, capito? Cioè anzi sono stati meno. Adesso non ho capito bene il dato, scusate, 19.835 prima, dopo 19.864 il delta è 29 incidenti, sì, dice questa legge alla fine non è servita a niente. Gli incidenti mortali sono stati solo meno 6 incidenti mortali, solo, sono abbastanza comunque. Le persone decedute sono state meno 10 persone decedute, le persone ferite meno 74, insomma sembrerebbe dimostrare che questa legge non è servita a nulla. Noi invece questa mattina siamo qua proprio per cercare di capire qual era il senso di questa legge e a cosa è servita invece questa legge, senza naturalmente mettere in dubbio i dati di Repubblica. Allora, avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. Avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, il sito è vittimedellastrada.org, che ci ha seguito nelle varie fasi di presentazione, di discussione e poi di approvazione di questa legge. Cosa dice innanzitutto della sintesi giornalistica che questa legge non è servita a nulla? Ma la sintesi giornalistica si basa soltanto su dei dati astratti ed evidentemente al di fuori avulsa da quello che è il contesto forense di quello che succedeva nei tribunali, di quello che succedeva. Perché astratti? Sono i numeri degli incidenti? Sì, insomma, però dobbiamo tener conto che i numeri degli incidenti attuali sono in pratica bilanciati, perché nell'estate scorsa del 2014 e fino all'approvazione della legge noi avevamo avuto una recrudescenza di pirateria stradale, di gravi crimini stradali che adesso sembrano attenuati e bilanciati. Quell'aumento impressionante, proprio in concomitanza dei lavori parlamentari, sembra arrestato. Quindi, allora, facciamo una cosa, avvocato Cesari, velocemente, in un minuto, ricostruiamo qual è stato, diciamo, la rivoluzione che ha fatto questa legge rispetto a prima, così facciamo capire anche agli ascoltatori cos'è. Cosa ha determinato questa legge? La legge ha determinato un sensibile inasprimento delle pene, soprattutto per i casi di grave criminalità stradale, quindi la pirateria stradale, chi guida la criminalità derivante dall'alterazione psicofisica, la guida da droga ed alcol, e anche la criminalità da guida azzardata e temeraria. Facciamo un esempio, avvocato. Cosa sarebbe accaduto prima, qualcuno che guidava in stato d'ebbrezza, creava un incidente, creava una vittima, e cosa è accaduto dopo la legge? È accaduto che, per esempio, tutti i casi di lesioni gravi e gravissime, che comprendono anche la tetraplegia, la paraplegia, lo stato di coma permanente, le gravi fratture, ecco, che portano a stare magari un anno immobile, prima vedevano un procedimento penale davanti al giudice di pace che di fatto si concludeva o con la prescrizione o con un nulla di fatto, in tempi lunghissimi. Ora, questi casi di grave invalidità permanente, oggetto magari di cause di ubriachezza e magari di guida azzardata, vengono attribuiti al tribunale e quindi c'è un grande, maggiore rigore nella sanzione per la violazione del valore dell'integrità fisica e psichica. Ma non solo, il fatto importante è che questa legge ha determinato una grande sensibilità nei confronti degli organi di polizia, nei confronti delle procure, che si sono concertate addirittura con i presidi sanitari per non far sfuggire quei criminali che alla guida in maniera alterata da droghe e da alcol, purtroppo in tanti sono sfuggiti alla giustizia. Allora, fermiamoci solo un attimo. Non venivano fatti gli esami. È chiaro, l'avvocato Cesari ce l'ha spiegato. La legge serviva proprio perché non accadesse più quello che ormai era diventato una vulgata, un luogo comune, ma basato sulla realtà. E vedi, quello ubriaco, senza patente, drogato, ha ammazzato delle persone, ha fatto gli incidenti, dopo due giorni di nuovo a spasso. Non è più di nuovo a spasso perché la legge adesso lo punisce in maniera anche abbastanza pesante. Fermiamoci un istante. 800240024. Secondo voi serve, è servito indicare e creare il reato di omicidio stradale, cosa che prima non esisteva? È questo il vero scopo di questa legge? Cosa è cambiato nella percezione generale di chi guida per il fatto che oggi si paga duramente una scorrettezza, una leggerezza, anche se ancora nessuno rinuncia a digitare sul proprio smartphone, a guardare i messaggi e a rispondere su WhatsApp, sapendo che anche questo fa parte comunque del reato, che è punibile pure per il reato di omicidio stradale, se procura o provoca comunque un incidente stradale grave. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Nel pomeriggio di ieri da il nome dell'ultima vittima è Antonio Toscano. Aveva 86 anni ed è stato travolto nel pomeriggio di ieri da un automezzo che stava effettuando una manovra. Il conducente, spaventato, è fuggito senza prestare soccorso all'uomo rimasto inerme sull'asfalto. Il pirata della strada è stato comunque identificato dai militari nel giro di qualche ora. Si tratta di un 42enne di Belcastro che ora si trova agli arresti domiciliari, accusato di omissione di soccorso e omicidio colposo. Se il tragico incidente fosse avvenuto qualche ora dopo, il 42enne sarebbe stato giudicato secondo la nuova normativa che definisce l'omicidio stradale in vigore da oggi. Una battaglia lunga e irta di ostacoli, quella che ha portato, dopo diversi rimandi... Questo era il primo giorno dall'approvazione della legge di omicidio stradale. Ci domandiamo oggi quanto questa legge sia servita, anche se non so fino a che punto è possibile portare dei dati numerici, a cambiare la coscienza in generale, la percezione del reato che si compie quando si mettono in atto dei comportamenti regolari contrari al codice della strada. Leggo qualche sms di ascoltatori, così diamo l'idea un pochino di quello che è il polso del pubblico. Chi vuole intervenire può chiamare all'800240024. Allora, un primo ascoltatore dice quello che ho già letto da molte parti: la legge è servita a far scappare tutti, siccome si rischia di più, è più facile che ci sia l'omissione di soccorso. Se uno compie un incidente, investe un pedone, un passante, comunque crea degli episodi in cui ci sono delle vittime, dei feriti, preferisce scappare perché rischia molto di più. Poi dice un'altra persona: dimostratemi il nesso fra l'inasprimento della legge e riduzione dei guidatori alterati e uso del cellulare alla guida. Penso sia un po' difficile, ma è giusto che la legge sia stata fatta, perlomeno dal punto di vista di diritto si sa che quello è un reato, non c'è più l'idea, diciamo, ma nessuno li punisce. Omicidio stradale, la colpa principale è dei sindaci, quali lasciano le auto percorrere le strade urbane ad alta velocità. Un altro tipo di problema, però questo è da considerare. L'unico modo per punire un responsabile di omicidio stradale è farsi giustizia da soli. Come si è visto, i colpevoli non sono stati denunciati o al massimo arresti domiciliari anche in caso di fuga. E questo vediamo se è vero con l'avvocato Cesare. Prima però voglio sentire due ascoltatori. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire molto sinteticamente che era un po' difficile che la legge potesse portare grandi risultati dal punto di vista pratico nei numeri, ecco, può aver contribuito a creare magari una maggiore prudenza in qualcuno, una maggiore coscienza, però non è con la prevenzione che si risolvono, non è a valle che si risolvono i problemi a monte. Cioè... Però mi scusi Marco, per lei è stato giusto che fosse stabilito che comunque quelli sono reati che vanno puniti con pene adeguate? È stata una cosa anche un po' troppo propagandistica secondo me, perché guardi che se va a vedere le pene che c'erano prima, erano pene alte. era una questione di applicazione, cioè se il giudice quando c'è la forbice da 3 a 15 anni mi mette 3, purtroppo è un problema del giudice, ma lui potrebbe mettere 6. Allora, fermo un attimo Marco, no, su questo facciamo rispondere subito l'avvocato Gianmarco Cesari, ricordo dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Questa legge nasce da un'iniziativa, diciamo, popolare, le famiglie, le vittime della strada sono consociate, hanno detto basta, non possiamo fare in modo che tutti tollerino il fatto che chi uccide una persona con l'automobile non sia equiparato a chi la uccide con una coltellata o una martellata. Allora, avvocato Cesari, su quello che dice questo ascoltatore, Marco. Ma guarda, il problema principale è che prima dell'approvazione della legge esisteva una grave sottovalutazione e una banalizzazione del reato contro la vita e del reato contro la salute derivante dalla circolazione stradale. Per cui nei tribunali per anni le pene sono state attenuate al minimo, è sempre stata concessa i benefici, sospensione condizionale. Addirittura in alcuni casi i giudici si dimenticavano di sospendere la patente di guida. E quindi persone in piccoli centri ritornavano a guidare come se non avessero fatto nulla. Diciamo, di fronte a reati più gravi, omicidi, c'era una situazione di si pensava, beh, quella automobile. E anche, ecco. E anche riguardo a chi guidava in stato d'ebbrezza? Assolutamente, ma in tanti casi il guida in stato d'ebbrezza, le persone venivano portate magari con ritardo gravissimo, vuoi perché non c'erano nelle auto gli alcol test, poi quindi mancavano proprio gli strumenti in dotazione alle forze di polizia. Per l'immediata, diciamo, e magari venivano portati in ospedale, veniva fatto solo l'esame delle urine e quindi, dato che non era certo dimostrare che c'era un'alterazione al momento dell'incidente stradale, di fatto queste pene aggravanti per ebbrezza e droga venivano annullate addirittura dal giudice, nonostante la richiesta della procura. Oggi cosa accade a una persona che guida in stato d'ebbrezza? Se viene preso... Oggi viene portato immediatamente, almeno presso i centri i nosocomi, presso i presidi ospedalieri, esistono già dei protocolli operativi tra forze di polizia e ospedali, per cui la persona viene sottoposta al test dell'esame del sangue, che è quello che può dimostrare con certezza, anche a garanzia dello stesso conducente, se la persona è alterata o non è alterata. E quindi se c'è un'alterazione da 0,8 a 1,5, quindi in caso di grave alterazione psicofisica, è chiaro che scattano tutte quelle aggravanti del delitto sia di omicidio stradale che di lesioni personali scolpose stradali, con degli aumenti sensibili delle pene, chiaramente, conseguenze sulla patente per evitare che una persona che magari abitualmente si mette alla guida in stato d'ebbrezza o sotto alterazione da stupefacenti non torni più a essere un pericolo sociale. Tante persone socialmente pericolose fino all'approvazione della legge l'hanno fatta franca grazie proprio a una sottovalutazione del problema della strage stradale e grazie quindi a una specie di sensazione che una morte per incidente stradale fosse la normalità. Questo non è più. Ah, Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io volevo dire semplicemente questo, che questa legge che è stata varata per me ha reso potenziali assassini milioni di automobilisti. E perché dice questo? Adesso le spiego. Io ho più di 70 anni, non ho mai investito nessuno, incidenti gravi di nessun tipo, eccetera. Quello che voglio dire è questo, che a me sarebbe anche bene che gli danno non 18 o 20 anni a chi è drogato o chi è ubriaco alla guida, ed è un discorso che ha secondo l'avvocato, ma per quanto riguarda invece l'investitura indiretta, diciamo, di un incidente, come ci sono state già delle situazioni che si sono create, ossia che non c'entrano o c'entrano parzialmente, nel senso perché c'è una macchina ferma parcheggiata, non so, in divieto di sosta o cose del genere, innanzitutto è sbagliato e poi c'è un'altra cosa. No, mi spieghi bene, Luigi, che non ho ben capito. No, ma non ho ben capito. Perché diciamo gli incidenti gravi? Perché Luigi, ma ascolti, no, ma ascolti. 40 giorni di ospedale, ossia se un dito della persona cade per terra e se fa male, se lo rompe, gli danno 40 giorni e già viene coinvolto in questo. E non mi pare neanche una cosa giusta. Ma mi faccia capire, Luigi, scusi, perché dice questa legge fa diventare potenziali assassini? Perché potenziali assassini? Potenziali assassini perché in pratica a chiunque può succedere, oggi attraversano le strade guardando i telefonini, parlano, fanno tutto, anche i pedoni soprattutto, a me un pedone mi ha detto se mi investi tanto mi paghi, io gli ho detto scusi se rimani sulla sedia a rotelle che ce fai con i soldi, era pure un ragazzo giovane, gente deficiente. Ma le è successo qualcosa? Non è solo l'automobilista qui. Sì, ma le è successo qualcosa? Vabbè, Luigi, però non è così. Luigi, faccia parlare. Vabbè, senta, Luigi, faccia parlare. Se non mi fa parlare, non parla, Luigi. Allora, Gianmarco Cesare, se mi date sulla voce, non mi fate parlare, siccome sono io che conduco la trasmissione, non avete più diritto a parlare. Luigi, non ho ben capito cosa volesse dire. Era molto arrabbiato. Allora, sentiamo l'avvocato Cesare. Molte persone pensano che se commettono un incidente stradale con lesioni anche lievi, ci sono delle conseguenze altamente dannose proprio per il cittadino. Non è così. Dobbiamo informare che per il reato base, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che per chiunque cagiona con colpa lesioni personali, la pena base rimane inalterata rispetto a prima, da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi. Quindi non era informato, Luigi, che era tanto arrabbiato. Che con il patteggiamento, la condizionale, in pratica si arriva a una pena veramente minimale sospesa. Quindi non è cambiato nulla per le pene, per i reati derivanti da colpa lieve. Non è cambiato nulla. Quindi quelle sotto il profilo sanzionatorio penale. Quindi è una falsa, così come venne detto, che i sindaci, gli amministratori delle strade rischiavano l'omicidio stradale, non è così, è stata una falsa notizia, come tante che ci sono state dopo. Ma no, problema di spiegare una cosa, noi siamo fondamentalmente un paese che, se io scendo in piazza e dico tutti in galera chi compie dei reati, mi fanno un monumento, che l'idea, lo spirito di folla è fondamentalmente forcaiolo, lo è sempre stato, la folla si aizza, lo spirito popolare si aizza. Se adesso mando un sms, quella persona che ha fatto uno scippo bisognerebbe impiccarla, troppe persone comunque mi danno comunque ragione. Non capisco perché nei confronti di questa legge c'è questa sorta di senso di generale disprezzo. Improvvisamente diventano tutti garantisti. Mi scrive uno, a parte Luigi lo vedeva arrabbiatissimo, e se il pedone poi mi dice mettimi addosso, te mando sulla sedia a rotelle come se fosse una guerra. Se uno ha bevuto un po' e è sfortunato, detto, diventa un assassino, sfortunato vuol dire, se uno guida in stato di ebbrezza, ammazza una persona, è comunque un assassino. Questa legge ti dice se è un assassino. Poi il problema arriverà quando non c'è certezza della colpa, come viene stabilito. Se mandavo un messaggio mi sono distratto per mangiare o fumare, esistono i tabulati dei telefonini, caro, se in quel momento dell'incidente tu hai mandato un messaggio da qualche parte qualcuno lo sa. Legge troppo punitiva per chi causa incidenti senza essere in stato alterato. Poi una questione etica. Se si adotta una legge estremamente invasiva, tuttavia il problema resta. Poi, legge punitiva per chi causa incidenti senza essere in stato alterato. Perché, avvocato Cesare, lei fa l'avvocato, quindi queste cose le maneggia ogni giorno. Improvvisamente diventano tutte garantiste. Andiamo a toccare un'area molto sensibile dell'italiano medio, quella del diritto di fare quello che Piffero vuole quando è al volante della propria automobile. È stato l'ostacolo all'approvazione della legge più importante. In 8 anni che personalmente ho lavorato per questa legge, per mettere quindi un freno a questa situazione di impunità che era una delle cause della strage stradale, io ho incontrato una mentalità che prevedeva proprio una garanzia per chi uccideva e per chi ledeva sulla strada, perché tutti si sono sentiti, anche i parlamentari, si sono sentiti più nel guidatore che nella vittima della strada. Tutti quanti hanno reagito negando quella aggravante, per esempio, per la distrazione dall'uso delle apparecchiature elettroniche alla guida, ovvero dello smartphone, perché tutti guidano col cellulare in mano. Quindi tutti si sono immedesimati in una persona che potenzialmente poteva uccidere la guida. Ecco, perché viene considerato come, diciamo, una mancanza veniale? Sembra che ci sarà male se guardo un messaggio, perché oggi, esatto, non è più telefonare, poco sarebbe rispetto a quello che è digitare un messaggio su WhatsApp o su Messenger, che ci vuole molto più tempo, è molto più difficile. Nessuno rinuncia a questo. Ma qual è il livello, visto che mi sembra anche dall'inchiesta Repubblica la prima causa di incidente è proprio questa, la distrazione a telefono, abbiamo visto, corrisponde a 30 metri fatti senza avere controllo, capito? Qual è, diciamo, il... ci fermiamo un istante, mi dico devo fermarmi, poi pigliamo fra un po'. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo parlando della legge sull'omicidio stradale, che a 9 mesi dalla sua approvazione ancora non è ben percepita dai guidatori medi come qualcosa di utile, efficiente, addirittura come qualcosa di punitivo, di restrittivo. Mi scrive un ascoltatore: metterei in galera i politici, per caso loro l'italiano medio si sente frustrato sicché scatena la rabbia in auto, e quindi esempi di pena dall'alto. Pensate che idiozia uno può pensare e concepire. Però ci sono degli ascoltatori concordi su un fatto, che l'omicidio stradale, il ferimento grave per disattenzione, distrazione, non ottemperanza delle regole del codice della strada, maneggio del telefonino, stato di ebbrezza, stato di droga, non sia grave perché non c'è la volontà di un omicidio. Cosa risponde l'avvocato Cesare a questo? Ma io l'ho detto subito, cioè adesso è cambiata proprio la mentalità. Il legislatore ha voluto chiedere agli italiani un maggior senso di responsabilità, ma soprattutto ha voluto chiedere ai procuratori della Repubblica e ai giudici maggior rigore e serietà. Prima, lo dobbiamo dire, finiva in tribunale con una pena che era un nulla di fatto, come si dice in gergo, veramente a tarallucce e vino. Quindi si usciva dai tribunali, e soprattutto per i reati da lesioni gravi e gravissime, si usciva come se si fosse spiaccicato un boscerino sul parabrezza. Ora non è più così. Cos'è un omicidio colposo a tutti gli effetti? Ma non veniva di fatto punito, perché quando ci sono state sentenze di 6 mesi, di 8 mesi per aver ucciso una persona, è chiaro che la giustizia aveva fallito. Noi dobbiamo pensare a quello che sotto l'aspetto della giustizia ha comportato questa legge, ovvero un rispetto per il valore giuridico del bene della vita e della salute e della dignità umana che prima non c'era nelle aule. Diciamo, per l'esperienza mia personale, oggi le persone stanno più attente all'alcol. La maggior parte delle persone che conosco e frequento, quando vanno a cena, c'è uno che guida e che non beve. Tutti sanno, se anche ti bevi 2 o 3 bicchieri a cena, è meglio che non ti metti alla guida. Questo una volta non era così. Uno andava a cena, beveva quello che cavolo voleva, non ci pensava, dice: ma che vuoi che sia. Oggi io stesso, se vado a cena fuori e devo guidare, non bevo. Ho anche paura di bermi più di un bicchiere di vino, perché non si sa mai, ti beccano appena uscito dal ristorante e ho esperienza che e poi si paga caro. Questo almeno sarà servito, avvocato Cesare. Assolutamente sì. Vedi, quello che è servito è il primo messaggio che è stato dato. Alla guida occorre avere rispetto degli altri. Se tu sbagli, la paghi. Questo è passato il messaggio. Ho sentito dei tassisti lamentarsi. Per la categoria dei tassisti, come tutti quelli che guidano, c'è tolleranza zero. Mi sembra che i margini di tolleranza siano più bassi. Cioè, se addirittura mi mangio un pocket coffee, rischio con l'alcol test che mi tolgano la patente e la licenza, ma è vero? Ma diciamo che se io no, questo no, perché stiamo prendendo una moderata sostanza alcolica, non supero lo 0,8, e certo la gradazione per cui la pena è grave, si rimane nell'ipotesi semplice, ma quello che vale soprattutto è che determinate pene vengono aumentate non più con un aggravante che addirittura veniva prescritta con i tempi processuali, perché molte persone che sono state condannate in primo grado con l'aggravante per l'alterazione psicofisica da droga o alcol, poi in appello se la venivano eliminare con un'alterazione di pena per la prescrizione dell'aggravante addirittura. Questo non è più, e quindi c'è stato questo passaggio importante, ma soprattutto anche per chi trasporta persone, per chi guida articolati, autosnodati. Ecco, per queste persone ci sono delle aggravanti speciali che prima non c'erano. Dobbiamo pensare proprio che è stata una riflessione. Certo, tutto è migliorabile. Noi sappiamo. I tassisti dicono che dobbiamo stare molto più attenti proprio per questa ragione qua. Allora, questo è un passaggio importante, migliorabile. Noi per esempio abbiamo sempre detto che la revoca della patente per 5 anni è eccessiva, quella che viene comportata anche per lesioni gravi. Ci dovrebbe essere una gradazione. Ma il passaggio importante è, uno, che i dati, anche questi attuali recenti, dimostrano un abbattimento del numero dei morti sulla strada, e se noi continuiamo a mantenere questa percentuale, seppur bassa, in tutti gli anni, noi arriveremo a raggiungere quell'obiettivo europeo che è il dimezzamento dei morti sulla strada, anche con questo dato pubblicato da Repubblica, che alla fine è un dato positivo. Sentiamo qualche ascoltatore. Maurizio. Maurizio, sì, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Ascolto. Ah, dunque, senta, io questa cosa dell'omicidio stradale non riesco a digerirla. Perché non la digerisce? Dunque, il discorso è molto semplice. Le forme di omicidio, ci sono già i reati di omicidio. Introdurre un altro reato di omicidio... Ma l'abbiamo già spiegato, cioè, mi sembra, se lei ci ha seguito attentamente. Era considerato una sorta di bazzecola, ma nemmeno veniva preso in considerazione. Sì, non c'era l'idea che chi uccideva persone era come se avesse schiacciato un moscerino, detto l'avvocato Cesare. Allora è un problema di chi applica le leggi, giusto? Sì, ho capito, ma se è così, che ci vuol fare? Allora introduciamo un altro reato per fare ancora più confusione. Ma confusione non c'è, confusione, io non capisco. Scusi, quello me deve spiegare bene. È un omicidio, Nicolò. Sì, ma lei mi deve spiegare, Maurizio, perché c'è questa sorta di senso di riluttanza ad accettare che se uno ammazza una persona perché ha bevuto, perché si è fatto di droga, perché guarda il telefonino, non compie un reato paragonabile all'omicidio. Perché? No, non c'è la riluttanza. Sto dicendo proprio che è semplicemente un omicidio e come tale va trattato. Non c'è bisogno di introdurre un altro reato di omicidio. Se questo non avveniva, allora prendiamo per le orecchie chi applica la legge. Sì, ma lei quante mani ha? Scusi, quante mani ha? Per le orecchie tutti i pubblici ministeri d'Italia. Era una cosa che era nel costume, era radicato. Nessuno. Cosa fa? Vuol fare una battaglia culturale? Magari. Io sono per le battaglie culturali. No, semplicemente non ingarbugliare ulteriormente la legislazione. Ma dov'è ingarbugliata? Aggiungo un altro reato. A questo punto, scusi, un paradosso, se posso. Sì, allora io vado in macchina, vado in giro con una pistola, ok? Sparo una persona e poi gli passo sopra in macchina. Io che tipo di reato ho compiuto? Un omicidio. Scusi, non è un paradosso. Prima gli ha sparato, è un assassino a tutti gli effetti, volontario. È omicidio volontario. È omicidio volontario. Avvocato Cesare, scusi. Assolutamente dobbiamo pensare che la necessità era quella di arginare un fenomeno della impunità. Di fatto deriva nelle aule di giustizia. Ma perché diventano tutti garantisti improvvisamente quando si parla di automobile? Questo voglio capire. Perché guidiamo tutti. Ecco. Questo è il fatto che guidiamo tutti quanti e siamo purtroppo tutti potenzialmente capaci di trasgredire le norme del codice della strada. Questo è fatto in modo, per esempio, che non è passato l'emendamento che introduceva un aggravante per la distrazione da smartphone. Non è passato, ma c'era durante i lavori parlamentari. Tanto bene, il telefono non è passato. Beh, oddio, ci sono anche le pressioni delle lobby di chi produce smartphone. Non è passato. Ma c'era. Cioè, se non c'era la bocciatura dell'emendamento nei 5 passaggi parlamentari della distrazione alla guida da uso da apparecchiature che guardi che poi la prima legge, che è la prima causa dell'incidente invece certo, è diventata certo, e purtroppo andiamo a vedere, circolando come facciamo tutti per strada, che stanno tante persone ancora col telefonino allora, in mano. Però avvocato Cesare, questa cosa ribadiamola, in questa legge di cui siamo stati contenti, che abbiamo seguito e tutto, guarda caso l'articolo che andava a sanzionare la prima causa d'incidente, che era la guida da smartphone, a un certo punto è scomparso. Sì. E quindi non c'è. E quindi tranquillamente la gente sa che può telefonare con lo smartphone, parlare, mandare, digitare, non rientra nei rigori della nuova legge. Non rientra nei rigori e nonostante tutto non si rende nessuno conto che un tempo psicotecnico di reazione a un allarme visivo è di un secondo e mezzo, e se guardiamo il telefonino quel secondo e mezzo passa e l'incidente accade e magari muore una persona o una persona la costringiamo in carrozzella per tutta la vita. Tornerete alla carica su questa cosa? Noi abbiamo chiesto, diciamo, di migliorare quello che è la legge, ma soprattutto abbiamo chiesto anche di intervenire sui processi, perché è inutile avere una legge approvata e poi vederla naufragare, che i processi si svolgono in anni, come succede adesso, 8-10 anni per arrivare in Cassazione. In altri Stati europei i processi per omicidio stradale in primo grado, in appello, si concludono in un anno. In un anno. Se si vuole si istituiscono delle sezioni specializzate, questo l'abbiamo chiesto al Ministro della Giustizia, delle sezioni specializzate per i reati contro la persona, dove questi processi che ledono la dignità umana trovino corsie preferenziali e tempi celeri. solo così si garantirà l'efficienza della legge. Fermiamoci solo un istante, dobbiamo... avvocato, devo dare la linea, riprendiamo fra un istante, prenda fiato, in ascolto ci sono altri nostri, diciamo, contestatori che continuano a essere dell'idea che questa legge forse era inutile, non serviva, e sentiremo Riccardo, Lorenzo, Nicola, che avranno la pazienza di aspettare un istante. A tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024, sentiamo gli ascoltatori che avevo annunciato poco fa. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere un chiarimento al suo ospite. Qualora il più scorretto utente della strada, qualora in circolazione, che è il ciclista, che gira contromano violando qualsiasi regola del codice della strada, venisse ucciso da un'automobile, quali sono le conseguenze per l'automobilista? Perché a grandi linee l'automobilista, intanto finché non si accerta la responsabilità dell'incidente, va in galera e gli viene ritirata la patente, molto probabilmente. Chiedo quindi se, visto tutta questa perizia che l'avvocato impone, imporrei che le biciclette devono tutte essere assicurate, dopodiché i vigili, cioè la polizia municipale, dichiara, dopo aver fatto diverse richieste, che se fermano un ciclista contromano, questa persona dice che non ha i documenti e loro non gli possono fare niente. Allora Riccardo, va bene, la domanda è chiara, Riccardo, ed è riapre un altro filone di trasmissioni, abbiamo fatte tante, l'interminabile, sanguinosa e inesoribile faida fra automobilisti e ciclisti. E ho capito che lei ce l'ha sul gozzo il ciclista. Comunque, avvocato Cesari, se uno ammazza un ciclista e viene contromano, rientra nei rigori di questa legge? Rientra nei rigori di questa legge, ma la legge tiene conto del concorso di colpa della vittima e quindi si può, il giudice ne terrà conto, addirittura potendo abbattere fino alla metà la pena che darà. Mi sembra chiaro. D'altronde, sentiamo Marco, buongiorno. Sì, salve, buona giornata. Io volevo fare la mia considerazione allacciandomi a quello che diceva Nicoletti: se bevo due bicchieri di vino a cena, dopo non mi metto la guida perché ho paura. Ci sto attento, forse sbaglio, sono esagerato. Mettiamo che io bevo un bicchiere e mezzo, due bicchieri, casomai anche con un bicchiere supero la soglia, no? E poi ho la sfortuna di pestare un piede a qualcuno, io posso passare un guaio con questa legge. Io volevo collegare questa cosa però alla mia esperienza personale. Io tempo fa fui attinto da diverse coltellate per strada con un tentato omicidio per di strada, appunto, di attraversamento di strisce pedonali. La persona, il PM derubricò il reato da tentato omicidio, come voleva dare la polizia, a lesioni gravissime. Questa persona dopo pochi giorni è uscita di galera e l'anno dopo ha ammazzato una persona in una discoteca. Bene, io dico, le leggi esistono, i reati di omicidio esistono, però vanno ponderati, cioè perché fare qualcosa che poi può lasciare tra virgolette il cittadino in balia di un sistema giudiziario che comunque non funziona perfettamente. Quindi secondo lei è troppo rigorosa questa legge? Non tiene conto delle condizioni particolari. Io posso anche bere tre bicchieri di vino e casomai essere lucidissimo alla guida, così come una persona che ne beve mezzo può essere. Ma qual è il criterio per determinare, diciamo, il limite di pericolosità? Se non si dà un parametro, dire oltre un certo livello all'alcol test non puoi guidare, non è che può pensare che lei magari è più robusto, più abituato a bere, perché l'effetto che non fa lei a un'altra persona magari fa molto effetto. Quindi secondo me un criterio oggettivo va stabilito. Oggi io sono un bravo bevitore, posso bere anche mezzo litro e guido tranquillamente. Questo lo pensa lei, però magari lo stesso effetto non fa con un altro, non può essere personalizzato, mi sembra che questa è la risposta. Sentiamo l'avvocato Cesari comunque. No, ecco che dobbiamo dire che l'esigenza di non lasciare senza una reazione punitiva i comportamenti di chi certamente si è posto alla guida in condizioni psicofisiche alterate per abuso degli alcolici hanno giustificato questa legge. Certo, penalizza qualcuno, l'ottimo bevitore, due bicchieri di vino per lui è come un bicchiere d'acqua, ne è penalizzato, però certo. Ci sta tutto, benissimo, va a piedi, prende il taxi, rispetto al fatto che molte altre persone in realtà ci stanno più attente e non si mettono alla guida. Dobbiamo dare informazione che però l'alterazione deve derivare da riscontri affidabili e di natura tecnica, a garanzia proprio dello stesso conducente, quindi l'accertamento sul tasso alcolico nel sangue è un accertamento di garanzia per lo stesso conducente, dove si dovrà riscontrare con con scienza e secondo scienza il tasso alcolico, se è fino a 0,5, se è fino a 0,8, se è sopra 0,8, se è sopra 1,5. Ma sappiamo già che se noi ci alteriamo e poi ci mettiamo alla guida, la conseguenza penale e sotto il profilo dell'abilitazione alla guida, quindi la patente, ci sarà. E questo è un passo per la garanzia della vita sulla strada. Ma questo è un po', non so se il paragone è esatto, come la legge antifumo. Quando uscì questa legge fu passata una legge liberticida, una legge esagerata, impediva il diritto di fumare. Si sono arrabbiati in tanti. Oggi non potremmo più tornare indietro. Chi oggi si immagina un ristorante con la gente che fuma, un cinema con la gente che fuma, un treno, un aereo con la gente che fuma, un taxi con la gente che fuma? Sarebbe inimmaginabile. Per la stessa ragione, è chiaro, qualche categoria di fumatore accanito rimane penalizzata. Hanno imparato a fumare in altri modi, in altre occasioni o negli spazi preposti. La stessa cosa vale per il bevitore piacevole. Sa, si vuol fare una bella bevuta, quella sera si prende il tram o si prende il taxi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Allora, io per lavoro faccio tantissimi chilometri, circa 60.000 chilometri l'anno, e quindi ne vedo di tutti i colori, in città, fuori città, strade extraurbane. La legge secondo me è una buona legge, so anche abbastanza bene da dove viene esattamente, insomma, quindi considero un buon snodo, un buon punto, un buon perno. Il problema secondo me sostanzialmente sono due. Uno è un problema di cultura. In Italia non facciamo abbastanza cultura stradale, dovremmo maggiormente insegnare ai bambini, ai ragazzi. Io vedo dei ragazzi con delle microcar che fanno delle evoluzioni pazzesche, magari hanno un patentino che forse l'hanno preso chissà in che modo. Continuo a vedere in autostrada persone che mi fanno i fari quando sono a 130, mi sfanalano, mi passano da destra mentre telefonano, eccetera. Il problema di cultura secondo me è importante. Come un problema di certezza della pena, come per tante altre cose, perché chi bene o male poi ha dei buoni avvocati e sa come difendersi, bene o male in qualche modo la sfanga. Chi invece disgraziati che magari, forse magari in modo improvvido, che fanno magari qualche infrazione eccetera. Questo vale anche per il furto di galline, questa è una regola che purtroppo attraversa l'umanità, chi ha modo di pagarsi potenti difese è più cautelato di chi non ce l'ha. Questo in assoluto vale sempre per ogni tipo di reato, purtroppo, ma è così, questo è innegabile. Ma nello specifico invece? Prego? Nello specifico? Nello specifico penso che questa legge è una buona legge, ma non ha forse dato i risultati sperati, perché c'è un problema di persone disinformate, probabilmente anche persone che vengono in Italia di altre nazionalità eccetera che non conoscono. Sì, diciamo, lo straniero alcolista o l'alcolista nostrano comunque sia continuerà a fregarsene, il delinquente incallito continuerà a farsi le sue piste di cocaina tranquillo, tanto lui fra dentro e fuori la stessa cosa. Ci sono alcune categorie ormai croniche nel delinquere che non saranno certo quelle che si spaventeranno per questa legge. Nicola, buongiorno, l'ascolto. Grazie dell'opportunità. Io ho ascoltato la trasmissione. Quello che a me dispiace, secondo me, è il fatto che, come al solito io parlo di questo paese, alla fine i provvedimenti legislativi vengono fatti sulla base di onde emotive. Un problema serio, importante come quello dell'omicidio stradale, era giusto risolverlo, normativamente bisognava intervenire, però perché ritengo non si è intervenuto dicendo in maniera più, come diceva anche quell'ascoltatore di prima, in maniera più semplice, senza andare a fare della confusione che poi dopo la gente fa fatica a comprendere. Mi spiego, perché non è stata introdotta l'ipotesi, cioè non è stato considerato che chi guida abusando di sostanze stupefacenti o alcoliche è in guida, cioè accetta il rischio di uccidere o lesionare un'altra persona, e quindi non è stato detto quello è un reato doloso e non è un reato colposo. È la classica ipotesi del dolo sostanzialmente, del dolo eventuale, chi accetta il rischio. Perché non è stato, invece poi cos'è successo? Si è intervenuto in maniera generalizzata, quindi si è andato a assimilare delle ipotesi dove c'è la guida in stato d'ebbrezza con delle ipotesi dove, come dicevano giustamente degli ascoltatori prima, e l'utente normale si trova a, purtroppo, perché fa parte dell'andare per la strada, può lesionare qualcuno, gli causa più di 40 giorni, 41 giorni di lesioni, lui per 5 anni non deve più poter guidare. Quindi secondo lei è frutto di un estremo compromesso che alla fine non colpisce duramente le persone che con mentalità criminosa bevono e smettono la guida, ma generalizzata colpisce un po' tutti, questa è la sintesi. Mi scusi se l'ho interrotta, però può andare a colpire anche quelle, e lì c'è altro anche un problema che è stato giustamente sollevato da tanti, di applicazione, perché anche nel regime previdente, se i magistrati avessero applicato come dovevano, capendo, perché questo non avveniva. Questo potrà essere un altro problema, come diceva anche lei, sì, prima sì. Un problema di cultura, però è un problema che va risolto, perché altrimenti la gente poi perde fiducia nella giustizia, perde fiducia nelle norme e si arriva al paradosso di dire questa legge qui crea più assassini. Non crea assolutamente, sotto certi aspetti è una buona legge, però perché vai a colpire, a inasprire le pene anche per l'utente sostanzialmente normale? Quello secondo me è stato l'errore, che poi crea un'incomprensione a livello generale. Sì, però Nicola, la sigla ci porta via, non posso nemmeno far ribattere l'avvocato Cesare, ha espresso un suo parere e in fondo dice la legge sì, ci doveva essere, ma la legge può essere perfezionata. Speriamo che nelle perfezioni e nei perfezionamenti possibili della legge proposta all'Associazione Familiari Vittime della Strada ci sia anche quello che lei dice. Alla prossima.